quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cuore non sono capace. Studia, impara, non via cosa adesso ignota, io so sempre quell'idiota, io non so che sospirar. Quanto è cara, quanto è bella, oh, bella, quanto è caro, più la vedo e più mi piace, e mai nel quel cor non sono capace, lieve affetto di ispirar. Non son capace, lieve affetto di ispirar, in quel cor non son capace, lieve affetto di ispirar, lieve affetto. In quel cor non son capace. Mi rischiara, chi mi insegna a farmi amar, chi mi insegna, chi mi insegna a farmi amar. Chi mi insegna a farmi amar, chi mi insegna.